Soldi e regole chiare, credo che questo sia l'obiettivo più importante per raggiungere il Green Deal. I target, peraltro, non sono abbastanza ambiziosi, quindi se li manchiamo diventerà veramente un problema. E quindi penso che il tema delle priorità degli investimenti e della spesa pubblica è ancora relativamente irrisolto, e anche il tema delle politiche di accompagnamento, cioè rinnovabili ed efficienza energetica. Sono queste le due strade che noi dobbiamo perseguire e probabilmente non è molto chiaro ancora nella testa dei governi. Infatti, proprio su questo volevo chiederle, ci sono diverse Europe che si muovono a diverse velocità? Sì, diciamo che tra l'altro anche dentro le diverse Europe ci sono delle diversità, nel senso che noi vediamo che per esempio l'Italia ha un atteggiamento nei negoziati, a parte che non si sa qual è, perché non c'è nessuna trasparenza da questo punto di vista, cioè noi non sappiamo che cosa l'Italia va a fare, va a dire durante i consigli dove si decidono le cose, e invece il Parlamento europeo naturalmente molto più trasparente, però questo è un vero problema, perché voi sapete per esempio che l'Italia sostiene sempre per esempio il gas? No, perché quello che dicono non è questo, e quindi questo secondo me è un problema molto grave. Quindi, e d'altra parte però in Italia la seconda green economy, quindi ci sono tante Italie. Il problema è che quella che negozia non è quella che ci piace, e questo capita praticamente per tutti i governi. Ce ne sono naturalmente alcuni che sono molto più avanzati, però anche quelli più avanzati, che sono gli scandinavi, hanno delle contraddizioni interne molto preoccupanti. Parlando dei piani del Next Generation EU, c'è stata, come dire, forse anche un po' di confusione, uso un eufemismo, su che cosa sia effettivamente rinnovabile. Sto pensando ovviamente all'idrogeno blu che si, come dire, produce con fonti fossili. Fossili. Ma sì, ci sono vari problemi, nel senso che per esempio c'è quest'idea che la transizione costa troppo. Il problema è che la non transizione costa ancora di più, e quindi anche questa discussione effettivamente è molto inquinata in Italia. C'è questa questione dell'idrogeno che secondo me è completamente sovrastimata. L'idrogeno può essere utile quando e se si metteranno a livello di mercato, quindi potranno essere delle soluzioni utilizzabili solamente come idrogeno verde, perché sennò ovviamente, essendo un vettore, cioè un qualcosa che non è una fonte ma è un vettore, è evidente che ha bisogno di essere spinto, e se lo spingi con rinnovabili è la stessa cosa che l'auto elettrica. L'auto elettrica è fantastica, ma se per produrre l'elettricità utilizzi il carbone come il 90% delle automobili in Cina, è chiaro che non è la soluzione. Invece quindi in Italia c'è questo modo di concentrarsi su delle cose, su degli scomparti, diciamo, su degli scompartimenti, diciamo così, stagni, per cui tutti parlano dell'auto elettrica quando il problema è la mobilità, tutti parlano dell'idrogeno quando il problema è chi lo spinge. Quindi credo che ci sia veramente un grosso problema di fare chiarezza, di fare verità intorno a questi temi, e credo che un evento come questo possa sicuramente aiutare. L'altro giorno Greta Thunberg ha usato un'espressione molto efficace parlando della condotta dei governi, usando il bla bla bla. Lei cosa ne pensa? Ma io penso francamente che ha ragione anche Draghi quando dice il bla bla bla ci serve per convincere. Ok, però il convincimento delle persone avviene se ci sono degli atti. Per esempio, il Green Deal europeo è stato un atto convincente, perché ha fatto capire a tutti quella è la direzione. Ma se fosse rimasto solamente uno slogan, come era prima delle elezioni europee del 2019, non sarebbe servito a nulla. Quindi, ovviamente, appunto, per quanto riguarda l'Italia, bisogna che ci sia una discussione chiara e netta sulle contraddizioni delle nostre politiche, e poi potrò dare ragione a Draghi, perché purtroppo il suo governo non è ecologista.